tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Oh, I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to stay. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go wandering. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there isn't a place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Oh, you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And before the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just the ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. Benvenuti ad una nuova puntata di Rock Legends, microfono come sempre il vostro Jean-Luc, nuova intervista, questa volta un ospite speciale per una puntata speciale, una vecchia conoscenza di Radio RCS, già ospite in altri programmi, approda per la prima volta a Rock Legends e presenterà il suo nuovo disco. A te la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, sono Ruben. E con Ruben stasera grande viaggio nel folk rock americano ed inglese del passato, partendo da Bob Dylan, che dal Live at Royal Albert Hall del 1966 ha eseguito il classico Mr. Tambourine Man. Un Dylan che dopo questa canzone comincerà il suo set elettrico sconcertando i suoi fan dell'epoca. Un momento entrato nella storia, che ne pensi? È stato un grandissimo concerto, un momento direi di rivelazione, perché di portare quelle che sono le canzoni in chiave acustica come aveva fatto in precedenza in chiave rock con la strumentazione elettrica, è stato un momento di grande svolta e direi che il cantautore è nato proprio quella sera, perché ancora oggi difficilmente un cantautore si propone soltanto in chiave acustica, tende ad accompagnare le sue canzoni con una strumentazione che spesso è anche elettrica, e questo è possibile anche direi perché all'epoca Dylan ha fatto questa scelta, questo momento rivoluzionario a cui per certi versi, per questo motivo, a lui dobbiamo essere tutti grati. Ruben nasce artisticamente svariati anni fa, quando hai capito che la tua strada era il cantautorato. Io ho sempre suonato con gruppi musicali. Quando si comincia la propria attività artistica si comincia a suonare con i compagni, più che altro compagni di classe, poi con altri musicisti, sempre nella dimensione del gruppo. A un certo punto però ho capito che questa dimensione mi stava un po' stretta, nel senso che portare avanti un gruppo è un'esperienza molto complessa, anche perché in un gruppo confluiscono più personalità che hanno, diciamo, progetti diversi, aspirazioni diverse. Io volevo fare musica, farla in una certa maniera, e quindi a un certo punto ho capito che dovevo andare da solo per poter fare i miei brani come meglio credevo, e quindi mi sono sganciato dalla dimensione così di gruppo per arrivare alla dimensione solista. E questo è venuto relativamente di recente, perché poi alla fine il mio primo disco solista è del 2000, e quindi diciamo sono 10 anni che percorro questa strada. E nuova musica folk americana con James Taylor, scoperto da Paul McCartney durante il suo soggiorno londinese. Taylor solo nel 1970 riesce a farsi apprezzare dal pubblico americano, facendo uscire il secondo disco dal titolo Sweet Baby James, da cui ascoltiamo la title track. There is a young cowboy who lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, closing his eyes as the dogies retire. He sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. All the colors I choose, won't you let me go down in my dreams and rock her by sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow, so was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshire seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, a song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Beet greens and blues are the colors I choose, won't you let me go down in my dream and rock her by sweet baby Jane. Un artista e una voce senza tempo, cui immagino sarai legato data la sua vena compositiva crepuscolare e agrodolce. Guarda, ti do ragione sul crepuscolare, perché anch'io sono un tipo abbastanza diciamo notturno, se vogliamo, comunque amo certe atmosfere. Non sono tanto legato a Taylor per quanto riguarda proprio il discorso dell'agrodolce, che effettivamente c'è nella sua musica, nella sua ispirazione artistica. Ecco, io non mi sento molto agrodolce da questo punto di vista, mi sento un po' più diretto e per certi versi apocalittico, e poi magari avremo occasione di spiegare questo termine. Ecco, appunto. Capitolo esibizioni live. So che al momento sono sporadiche ma significative. Come sono andate e cosa hai raccolto dal pubblico in questi set? Sono proprio reduce da un concerto fatto adesso qualche giorno fa a Brescia con il mio trio, e direi che comunque la reazione da parte del pubblico è sempre di interesse, anche perché si vede un qualche cosa, se vogliamo, anche un po' di particolare, perché il fatto di suonare queste canzoni, che in realtà nel disco sono elettriche in una dimensione quasi semiacustica, penso che